Salve a tutti amici vagabondi, benvenuti alla terza puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo, ovviamente, Fumino, e oggi vi parlerò di una cosa che mi è successa vagabondando, ovviamente, sui social network. Praticamente, cosa ha scaturito la mia curiosità? La scaturita il commento a una delle tantissime notizie palesemente false che le persone condividono appunto sui social network. Il commento in questione che mi ha svegliato la curiosità era questo, ovvero la madre degli stupidi è sempre incinta. Bene, e chiaramente questo era un commento che avallava la tesi ovviamente falsa della notizia bufala che era stata condivisa su una bacheca. A questo punto io mi sono chiesto: beh, in effetti ci sono molte persone che condividono sui social network notizie che sono palesemente false, cioè proprio sono incredibilmente false, e mi chiedevo se queste persone possano essere chiamate stupide, appellate con questo aggettivo. Allora, chiaramente mi sono avvalso del buon vocabolario e sono andato a curiosare sulla definizione precisa dell'aggettivo stupido. E ve la riporto così, tanto per far fare un'idea anche a voi. Allora, praticamente stupido significa preso da stupore, attonito, sbalordito, che è in condizione di incapacità o insensibilità indotta da una meraviglia, da una sorpresa. Analizzando questo, intanto sono rimasto io stesso stupido per aver scoperto che questo aggettivo deriva dal latino stupere e quindi stupire. Quindi io ho teorizzato in quel momento, quando ho letto questa definizione, che le persone potrebbero fare questo anche perché leggono una notizia che, anche se è palesemente falsa, magari non ci pensano che questa sia palesemente falsa, proprio non gli sale agli occhi, perché sono sopraffatti dallo stupore di aver letto una cosa, quindi talmente stupiti se la ricondividono pensando di fare un grande bene all'umanità, quando in realtà, ovviamente, condividendo una notizia falsa non facciamo bene assolutamente a nessuno, tantomeno a noi stessi. E questo è un motivo molto semplice per cui dico questo, e lo dico perché se noi riceviamo una notizia, qualunque sia, ci mancherebbe, e la accettiamo in maniera acritica, senza analizzarla dentro di noi o con la persona che ce l'ha detta o in un forum, se le persone che ci hanno detto queste cose sono compagni virtuali, fra virgolette, se noi dunque accettiamo acriticamente una notizia, non facciamo una bella figura, non facciamo un bel servizio a noi stessi, perché chiaramente ci esponiamo in maniera molto pericolosa a truffe, a ciarlatani, anche solo fosse a essere esposti a avere un pensiero riguardo un argomento che non c'entra niente con la realtà. Dunque, un suggerimento che mi viene ovviamente di dare a tutti voi cari amici che ci state ascoltando: quando ricevete una notizia, cercate di confutarla, cercate una contropartita, fatela quella che quando ero bambino in matematica si chiamava prova del 9, per vedere un po' se i conti tornano, per vedere un po' se la notizia che ci è arrivata o che stiamo per condividere o che ci è venuto voglia di condividere è effettivamente una notizia reale, una notizia che, a cui si può dar credito. Chiaramente in giro di bufale ce ne girano, ce ne sono tantissime, ce ne sono una quantità incredibile, per cui è molto difficile difendersi, però basta aguzzare un po' la vista, basta fare un po' gli occhi, soprattutto nei social network, che che diventa semplice. Ora, io non voglio stare a farvi la lista della spesa, ma quando vedi una notizia condivisa da qualcuno e vedi da che fonte questo qualcuno ha condiviso la notizia, già ti fai un'idea. Ovviamente, se la notizia è condivisa da un sito di una testata giornalistica qualsiasi, riconosciuta, ufficiale e tutto quanto, è molto probabile che questa notizia sia veritiera, anche se effettivamente controllarla non fa mai male. Ma chiaramente vengono condivise notizie da siti improvvisati, da blog farlocchi o comunque da blog che chiunque può aprire, e quindi queste notizie hanno bisogno di una verifica. E sinceramente, io da quando mi sono messo in testa di difendermi da questa cosa, perché effettivamente mi è capitato anche a me tempo fa di leggere delle notizie ricondivise e di trasalire un po' alla notizia stessa, e in effetti dicevo, ma non va bene così, perché anche solo il fatto che mi faccia trasalire per pochi secondi diventa una cosa pericolosa. Allora, chiaramente viene condivisa una notizia, viene condivisa una volta, due volte, tre volte, 100 volte, 1000 volte da una bischerata palese, diventa una mezza verità e probabilmente una verità, visto che è stata detta su internet. E a questo punto la gente vede le cose più disparate, e invece magari di chiedersi, di dire, che ne so, ma che cavolo sta dicendo questa persona qui, ma cosa cavolo ha ricondiviso questa notizia così falsa, magari legge e gli è quello che gli viene da dire, che ne so, ah mio Dio, ecco, e già lì si apre il mondo della notizia non vera ricondivisa su internet. Allora, chiaramente quello che è preferibile fare è ricontrollare sempre quello che viene condiviso sui social network, su internet, perché cadere vittime di queste cose ovviamente non ci fa bene. Chiaramente, un'altra domanda che mi è venuta da farmi tempo fa è stata, va bene, che ne so, avvistato un ciuco che vola sui cieli di Torino, e quello se la ricondivide e dici, vabbè, è chiaro che è una notizia falsa, è un ciuco che vola, ma perché? Se allora questa notizia del genere, lo stupore, ok, c'è dell'altro, ci possono essere altri motivi? Sì che ci sono, e sono motivi miseri, sono motivi di soldi, vale a dire, esistono chiaramente dei siti internet, dei blog fatti apposta, creati ad arte per buttare sui social network notizie false, anche se sono palesemente false, per effetto di quello che ho detto prima, creano stupore, tanta gente non se ne accorge e non ci pensa nemmeno. E cosa succede? La condividi uno, la condividi due, la condividi tre, e via e via e via, e anche solo senza ricondividerla, quello apre il link, che è correlato di solito un link, e cosa succede? Certi blogger, certi padroni di questi siti che di lavoro producono notizie false, guadagnano soldi, perché ad ogni click probabilmente c'è una pubblicità, e ad ogni click c'è un ingresso di soldi nelle tasche di queste persone. Ok, tutti dobbiamo mangiare, siamo italiani, ci mancherebbe altro, più o meno teniamo tutti famiglia, però occupare il tempo e probabilmente i pensieri delle persone con notizie false non è, dal mio punto di vista, un modo molto ortodosso, molto come si può dire, sano, di portare a casa la pagnotta, e basterebbe farlo con notizie magari che non disturbano le persone e la loro esistenza. Sarebbe molto più carino dal mio punto di vista, ovviamente. Detto questo, vi esorto allora ancora una volta a controllare bene le notizie che state per aprire in link un po' strani, controllare bene le notizie che state per condividere sui social network, perché chiaramente è molto più profittevole farlo che no. Detto questo, non mi rimane altro da fare che salutarvi, cari amici vagabondi. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, fino alla fine di questa terza puntata, e a presto con la quarta puntata di Vagabondo in giro per il mondo. Ciao da Fumino.